Velog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ho avuto due fratelli, ora purtroppo sono morti, uno per le conseguenze proprio di quanto ha vissuto in Germania. E quello del 21 Paolo era a Spalato. E a un certo momento ha raccontato tutto tornando a casa, dice che con l'8 settembre non hanno più trovato né i comandanti, nessuno, erano allo sbaraglio. Ha tentato di fuggire con una barca e invece è stato ripreso dai tedeschi, è stato portato a Bremen-Farge, su nell'Alta Germania. Là, per fortuna, l'ha messo a lavorare in un'industria. A un certo momento si è ferito, ma gravemente, una mano. Aveva una voce bellissima, perché qui cantava, ha cantato, ha fatto diverse operette, e ogni tanto cantava in questa, un signore anziano tedesco. A me piace molto occuparmi dell'attualità, ma sono convinto che il valore di una radio sia anche quella di avere una capacità di creare documentazione, di creare archivio. È raro che io ritorni su un argomento a distanza di soli due giorni, come faccio oggi, però mi sentivo in dovere di riprendere il filo di una trasmissione che era stata interrotta per termini di tempo, proprio mentre un reduce quel straordinario quanto poco trattato periodo della nostra storia, che era stato internato in Germania, come tanti altri suoi colleghi militari, parlo di 650.000 italiani catturati su vari fronti dall'8 settembre 43, in un momento molto difficile, complicato e controverso, e che poi sono stati destinati a vari usi dalla Germania nazista. Alcuni sono tornati, ma di questi un numero importante, 50.000, sono scomparsi, non se ne sa più nulla. C'è stata una grossa censura storica su questo fatto, che imbarazzava sia chi poi aveva ricostruito sulle ceneri della disfatta la neonata Repubblica, sia chi ancora aveva poco interesse che si riparlasse di queste cose. Soltanto negli anni, fine degli anni 80, degli internati italiani si è cominciato a parlare. Qualche giorno fa era appunto il 70° anniversario dall'inizio di questa deportazione, c'è stata una manifestazione, l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, e abbiamo pensato di parlarne. La cosa straordinaria è che in questa trasmissione ci hanno chiamato un numero esagerato di persone. Non pensavamo che nella memoria orale del paese fosse tramandata in maniera così potente questa storia. Questa storia che la storia ufficiale adesso timidamente comincia a trattare. Quindi, leggendo sui giornali, che proprio in questi giorni si sta tentando di creare un grande archivio storico della Prima Guerra Mondiale, ad esempio, fra un paio d'anni sarà il centenario della Prima Guerra Mondiale, e stanno cominciando a dire da tutta Europa: dateci ciò che avete a casa di memoria, di traccia sensibile, di oggetto che ricordi questo evento, perché, visto che viviamo nell'epoca digitale, tutto può diventare qualcosa di trasferibile, di comunicabile, di condivisibile. Beh, noi nel nostro piccolo questa mattina vogliamo affidare alla memoria dell'umanità dei racconti che altrimenti si perderebbero probabilmente nei rivoli delle memorie di tante famiglie. Visto che abbiamo tante persone che hanno una memoria diretta di prima mano, un racconto di genitori, un racconto di familiari rispetto a questa vicenda così poco trattata, noi questa mattina di questo facciamo parlare le persone che ci hanno chiamato, e questo è il nostro contributo. Questa puntata diventerà una briciola di archivio di un pezzo di storia, probabilmente qualcuno avrà piacere e interesse di studiare e approfondire fra qualche tempo. Dottor Michele Montagano, buongiorno. Buongiorno. Dottor Michele Montagano era la persona che avevamo tranciato la nostra sigla di chiusura, presidente vicario dell'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, ex ufficiale IMI, quindi internato militare italiano, deportato anche lui, e lui ci stava raccontando la sua storia. Vediamo, lei cerchi intanto di ridiamo un contesto storico a quello che ho soltanto accennato. Chi sono gli IMI innanzitutto? Gli IMI sono i soldati ufficiali italiani che dopo l'8 settembre, presi dai tedeschi, presi prigionieri dai tedeschi, hanno dovuto scegliere se aderire o non aderire alla guerra della Germania, e in massa quasi tutti quanti hanno detto di no. Quindi la nostra prigionia è stata una scelta volontaria, Per cui quando si sente parlare le sofferenze, il freddo che abbiamo sopportato, quello e quella, l'abbiamo sopportato perché l'abbiamo voluto noi. Questo è il punto essenziale che si deve capire degli internati militari italiani. A differenza di tutti quanti gli altri popoli, degli altri prigionieri che sono stati trasportati, deportati in Germania e non potevano fare altro, noi invece potevamo scegliere finanche tornare in Italia, come alcuni nostri ufficiale, soldato, hanno messo la firma sotto il giuramento a Mussolini e a Hitler e sono rientrati in Italia. Ma la gran massa, 600-650.000, sono rimasti in Germania. Come diceva la professoressa nella puntata precedente, voi sì, a tutti gli effetti avete fatto una forma di resistenza. Quindi è avete una forma di resistenza. Noi abbiamo resistito con una sola parola, dicendo no, dal primo giorno fino alla fine. E dire no alla Germania significava soffrire in continuazione. Oltretutto noi siamo stati trattato non come prigionieri ma come traditori, per cui abbiamo perduto il titolo di prigionieri di guerra, quindi non avevamo nessuna protezione internazionale, nemmeno della Croce Rossa, no? Ed eravamo considerati internati militari e quindi dovevamo sopportare tutte le angherie che loro volevano, le profferte che ci facevano, dice se voi aderite noi vi trattiamo meglio, altrimenti dovete stare nei campi di concentramento oppure dovete lavorare come schiavi. Lei quanti anni ha, dottor Montaga? Io ce n'ho 92 adesso. 92 anni, però diciamo la prigionia e le durezze l'hanno temprata e l'hanno fatta mantenere sì. Giovane e gagliardo. Io non ho bisogno dei libri che sta scrivendo Veronesi che bisogna mangiare poco, quello e quell'altro, perché tutte le esperienze che ho fatto in Germania mi ha mantenuto così bene che anche adesso mi sento abbastanza. Allora lei aveva cominciato il suo racconto, lei era un ufficiale. Io ero ufficiale l'8 settembre, cominciamo a parlare l'8 settembre io stavo in Slovenia. Facevo parte della GAF, la Guardia alla Frontiera, no? Noi quindi facevamo la guerra contro i partigiani di Tito e questo facevamo tutto, no, giorno e notte. Ed era una guerra insidiosa, brutta, perché lì l'avversario non lo vedevi mai, ti poteva sparare alle spalle, ti poteva sparare così senza che te ne accorgevi, insomma, quando si camminava, quando si stava fermo, era una guerra insidiosissima, la guerra contro i partigiani. Comunque noi l'8 settembre abbiamo avuto ordine di cercare di rientrare in Italia e di proteggere molti civili che stavano nella provincia di Lubiana, molti civili italiani, per riportarli in Italia, per toglierli dalle mani di questi titini. Beh, non dimentichiamo quello. Quando arrivato a Gradisca, dopo una marcia. Fu una delle aree dove poi vennero compiute le più grosse atrocità, anche come le foibe, di cui non si è parlato sì, più. Proprio per noi abbiamo evitato che si facessero le foibe 2 anni prima di quando si sono fatte regolarmente. Quindi abbiamo cercato di salvare tutti gli italiani che stavano lì nella provincia di Lubiana, non solo noi della GAF, ma anche altri reparti. Altre cose. Abbiamo messo in mezzo a noi questi civili e li abbiamo riportati in Italia. Arrivati in Italia abbiamo trovato i tedeschi che ci hanno immediatamente preso i prigionieri, ci hanno imbacchettato e poi ci hanno mandato subito, chi hanno mandato in Germania e chi in Polonia. Io sono andato direttamente in Polonia e sono stato, come ufficiale, sono stato immatricolato come prigioniero di guerra a Torn, sotto Danzica. Poi da Torn naturalmente sono passato a Częstochowa e ho fatto 8 campi di concentramento, 8 campi di off-lager, no? E com'era il lager? Com'era il lager? I lager più o meno come stanno dicendo tutti quanti gli altri, erano lager vecchi. Lager abbandonato, che la Croce Rossa aveva detto che non si dovevano più usare, dove si erano morte moltissimi russi e tutto. Comunque i tedeschi non avevano dove metterci e naturalmente ci hanno messo in quei campi che erano luridi, sporchi, rotti, senza igiene, senza niente. Insomma, abbiamo passato guai da questo punto di vista. Ma lei finché non è stato destinato poi al lavoro, quando fu stabilito? No, poi dico io per i primi 17 mesi io ho fatto l'internato militare come ufficiale chiuso nel campo di concentramento e facevo il prigioniero. L'era riconosciuto il rango di ufficiale? Se non che poi nel mese di luglio del 44 c'è stato un accordo tra Mussolini e Hitler per cui tutti quanti, anche gli ufficiali, dovevano andare a lavorare, perché i tedeschi, tutti i tedeschi dovevano andare a fronte e difendere la Germania che stava per essere invasa dai russi, no? E allora anche noi dovevamo lavorare. E lei dove l'hanno mandata lei? Le autorità mi hanno mandato vicino un campo di aviazione Dedendorf si chiamava, e lì ci hanno dato carriole e cose, quelle e quell'altro, che dovevamo lavorare, fare i muratori, fare gli sterratori e tutto, e noi eravamo un gruppo di 214. Questo è l'episodio su cui l'abbiamo interrotto. A un certo punto però alcuni ufficiali sono ribellati, hanno detto noi non lavoriamo. Sì, sì, questo, di questo vi sto parlando. Eravamo in 214, tutte 214, per 4-5 giorni di seguito ci portavano al lavoro e noi non lavoravamo. Quindi abbiamo fatto un atto di sabotaggio, per cui dopo di 5 giorni è arrivata la Gestapo, sono arrivate le SS e hanno fatto una decimazione. Ecco, hanno spieghi messo... bene cos'è la decimazione. Perché la non decimazione, tutti... hanno scelto su 214 21 persone che dovevano andare al muro e dovevano essere ammazzate come esempio, perché noi avevamo... E come venivano scelte, a caso? L'hanno scelta a caso, sì, uno. Tant'è vero. Lei ha visto proprio scegliere le persone, potrà accadere anche a lei? Sì, stavo pure io là, io non sono stato scelto. Comunque, quando hanno messo questi al muro, hanno detto queste non li vedrete più. In 44 siamo usciti noi e ci siamo offerto noi, ognuno di noi personalmente si è offerto di sostituire quelli che dovevano essere ammazzati. Dice, dovete ammazzare qualcuno, siamo ammazzate noi e salvate quelli. Ecco, ci racconti questa cosa, mi scusi, queste sono cose che si vedono nei film. Non mi è mai capitato di parlare con una persona che si è offerta per farsi fucilare al posto di un altro. Cosa le passava in testa? Questa è una cosa eccezionale, infatti è uno dei... Cosa passa in quel momento in testa quando decide vado io, faccio un passo avanti, mi faccio fucilare al posto di un altro? Avanti, ci siamo offerti noi. L'ufficiale tedesco della SS praticamente ha fatto capire a me bastavano 21, siete in 44 va bene lo stesso. E noi, quelli sono rientrati nelle file e noi ci hanno messo al muro e ci hanno tenuto 6 ore in attesa di essere condannati. E non ti dico che ore tragiche che sono state, perché non solo eravamo noi giovani di 20-21 anni sottotenente, ma con noi c'erano anche dei capitani che erano sposati, avevano famiglie, e quindi questi qua prima si sono offerti, ma naturalmente in attesa di essere fucilati, insomma, pensavano alla famiglia, cercavano di... Quindi lei stava accanto alle persone che stavano per essere fucilate? Sì, noi eravamo in 44, stavamo sotto il muro in attesa di essere condannati, di essere fucilati, perché normalmente la decimazione significa la fucilazione. No. Invece dopo di 6 ore che abbiamo passato tutti questi tormenti, questo e quest'altro, dopo di 6 ore i tedeschi stessi ci hanno detto che la pena è stata commutata al carcere a vita, e quindi siamo stati condannati al carcere a vita. Allora ci hanno preso e ci hanno portato a Unterlus, che era una specie di KZ, però era un campo di rieducazione al lavoro. Tant'è vero che con noi non solo ci stavano altri stranieri, greci, ma ci stavano anche dei tedeschi. Noi abbiamo avuto con noi 5 tedeschi, perché non essendo ebrei non potevano andare a finire nei KZ insieme agli ebrei, no? E quindi stavano con noi. Quindi noi stavamo italiani, francesi, belgi, ungheresi, olandesi, insomma, stavano tutti. Ed erano tutte persone che durante il lavoro avevano fatto qualche cosa, qualche sabotaggio, qualche cosa. E quindi noi siamo capitati, insomma, in una bolgia invernale di gente, di delinquente di tutte le razze, capito? Noi che andavamo lì per una cosa spirituale, diciamo così, per difendere il giuramento, l'onore, la responsabilità della divisa militare, e quelli invece che erano dei delinquenti. Quindi avevate un doppio rischio, come una persona finisce in un carcere assieme ai detenuti comuni. Il fatto poi che ci avevano condannato al carcere, mi sa che facevano? Ci facevano la strass, si chiamava, sui capelli, cioè ci facevano una rasatura che partiva dalla fronte e andava dietro la nuca, che da un'orecchia all'altra, in modo che avevamo sulla testa noi solo quattro ciuffetti di capelli, per cui eravamo riconosciuti. Un incrocio stradale sulla testa. Come quelle di Sing Sing, insomma, noi eravamo, non potevamo né scappare né niente, perché eravamo facilmente riconosciuti. Cioè, la croce in testa. Con la crocetta. Con noi, insomma, in 40 giorni che siamo rimasti là, 6 persone sono morte. Sono morte tutte di mazzata, perché lì non c'erano forni crematori, lì c'erano solamente mazzata dalla mattina alla sera, staffilata. Pensate che avevano degli staffili di cuoio con dentro pezzetti di ferro, che quando ti venivano addosso era un dolore atroce. Lei l'ha presa le staffilate? Come no, tutte 44, pensi che 6 di noi sono morti, 5 sono morte proprio per la staffilata, l'ultimo invece è stato ucciso perché non era più trasportabile, e là in Germania quando non si era più utile per qualsiasi cosa ti facevano fuori, c'erano delle fosse comuni e li mettevano lì, li gettavano lì nelle fosse comuni. Ma si fermi un attimo, Donatella, buongiorno. Ah, buongiorno. Ciao, Donatella, anche lei fra le persone ci hanno chiamato, ha avuto il padre catturato in Albania, poi portato in Polonia per i lavori forzati, quindi anche lei ha una storia. Questa storia come l'ha ricevuta, da chi l'ha ricevuta, come le è arrivata in casa? Suo padre direttamente? Sì, mio mio padre ne parlava spesso, perché chiaramente chi ha vissuto questa esperienza in realtà non se l'è più tolta da addosso, no? Quindi c'erano momenti particolari in cui lui ne parlava, oppure rimaneva da solo in silenzio, ascoltava la musica e quindi evidentemente ritornava a quei tempi. Lui era stato catturato in Albania e poi da lì, attraverso una marcia, prima a piedi, anche di notte, sotto l'acqua, con un grande freddo, e poi successivamente, trasportato nei carri bestiame, ha raggiunto diversi campi di concentramento, quello di Thorn, dove è stato poi solo 2 giorni, poi è andato a quello di Breslau, dove è stato 1 mese e mezzo, per arrivare a quello definitivo, il campo di Sagan, che era poi una dipendenza di Auschwitz, dove lui è arrivato alla fine di tutta questa storia, perché lui è stato catturato subito dopo l'8 settembre in Albania, è arrivato il 10 maggio del 44, e lui, durante questo trasporto sui carri bestiami, quando si fermava il convoglio, aveva una gavetta dove con un po' d'acqua, un po' di cose, è riuscito in tutto il viaggio fino a Linz a cuocere una patata, cercando attraverso delle pietre nascoste dietro ai carri, lui e un suo amico, di accendere il fuoco, proprio sfregando una pietra contro l'altra, e per cercare di sostentarsi. Quindi, lungo tutto il viaggio hanno cercato di cuocere questa patata nel gavettino. E lui ha tenuto tutto nel gavettino, tutto inciso, tutte le date, con tutte le tappe che ha fatto. Ecco perché riesco anche a essere precisa, perché è rimasta a casa questa gavetta con tutte queste incisioni. È una cosa che uso, avevo anche a casa mia una gavetta del genere, perché una gavettina era d'alluminio, quindi era facile con un chiodo inciderci. E quella che avevo a casa mia era trapassata da un proiettile, quindi aveva ancora più valore. Sì, certo. Lui quando arrivò chiaramente fu subito individuato, un ragazzo giovane, aveva studiato, mani di chi non ha mai fatto niente, i tedeschi giravano le mani per vedere dove destinare questi lavoratori. Cioè chi aveva i calli faceva lavori manuali, gli altri erano, diciamo... No, al contrario, chi aveva i calli non veniva ritenuto pericoloso e quindi veniva messo in ufficio. Chi invece aveva le mani tenere di chi non aveva lavorato veniva messo ai lavori forzati. Infatti mio padre fu messo a lavorare in miniera, a spingere dei carrelli pesantissimi, perché lì poi c'era il materiale per costruire dei binari, e faceva questo lavoro. E poi quando alla fine della giornata, dopo aver lavorato 12 ore al giorno, arrivavano in queste baracche cenciose dove la gente piangeva, aveva i pidocchi, dove c'era una situazione chiaramente di grande tristezza, e provava una patata con un po' d'acqua, una sbobba con un po' di bucce di rape, e quando potevano essere quell'ora di libertà che avevano, andavano chiaramente entro i confini del filo spinato, andavano a vedere nei rifiuti per pescare qualche buccia di patata. Questa è stata la sua vita là. Ecco, come gliela raccontava suo padre? Quando ha cominciato a raccontarvi questa storia? Ma io facevo le medie, quindi anche perché poi, sa, quando si comincia ad andare a scuola, a studiare i conflitti mondiali, tu sai che tuo padre ha fatto la seconda guerra mondiale, tuo nonno ha fatto la guerra sugli altopiani di Asiago nel 15-18, è chiaro che cominciano tutti a raccontarti degli episodi, la vita che facevano, eccetera, e tu che sei un ragazzino sei anche molto curioso di saperne sempre di più per capire anche meglio la storia che ti stanno spiegando a casa. Comunque grazie Natella, noi dobbiamo adesso dare la linea alle informazioni della borsa. Alcuni elementi l'abbiamo tratti al suo racconto, sembra banale, ma anche sapere che l'analisi dei calli delle mani aveva questa sorta di verdetto antitetico, l'intellettuale veniva punito e mandato a fare un lavoro forzato, la persona abituata a fare lavori manuali era più affidabile per occuparsi delle cose d'ufficio, sapeva meno cose, era meno colto e quindi più controllabile. Melog. La realtà condivisa. Mio padre, per esempio, fu uno di quelli che per tornare a casa, lui fu preso dai tedeschi l'8 settembre, fu portato in Germania, rimase lì qualche mese, credo, e arrivò un ufficiale della propaganda della Repubblica Sociale Italiana e lo convinse e si arruolò nelle SS italiane. Lui ha fatto una scelta letteralmente di pancia. Lui ha detto: se vogliono un soldato qualche cosa dovranno pure dargli da mangiare. Comunque tornò in Italia. Questa era una testimonianza andata in onda qualche giorno fa, quando dedicammo una puntata alla storia degli italiani internati in Germania fra l'8 settembre del 43 e la fine della guerra, il 45, furono un numero considerevole, ricordo 650.000 italiani, di cui 50.000 non sono mai tornati. Abbiamo deciso oggi di mandare tutte le testimonianze di persone che ci hanno chiamato e volevano raccontare qualcosa che è rimasta fino ad oggi relegata tra le mura di casa loro, e invece lo facciamo raccontare, come all'ascoltatore Roberto. Roberto, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Roberto, anche suo padre ha raccontato in famiglia qualcosa riguardo a questa vicenda. Sì. Mio papà fu fatto prigioniero dai tedeschi in Albania dopo l'8 settembre, e lui e i suoi commilitoni furono prima trasportati in Serbia, un campo di lavoro in Serbia, e poi a causa del ritiro dei tedeschi, anche risalendo il Danubio, arrivarono fino in Cecoslovacchia, la Boemia. Lì erano in un campo di lavoro, facevano un aeroporto, sbancavano terra e un aeroporto militare per i tedeschi. Suo padre di mestiere cosa faceva prima di essere militare? Mio papà era della Guardia di Finanza, era già nella Guardia di Finanza, poi dopo... Quindi era già, diciamo, in qualche maniera un militare? Sì, era un militare. E poi dopo ha continuato, ovviamente anche dopo la guerra, ha continuato la carriera militare, sempre nella Guardia di Finanza. Una volta arrivati in Cecoslovacchia, la particolarità del campo in Cecoslovacchia, in Boemia, vicino a Praga, vicino a Radeskralove, una piccola cittadina di Lipciani, la particolarità era che il campo era relativamente aperto, ci raccontava nostro papà, a noi figli, noi siamo quattro fratelli, e quindi nacque una specie di relazione, anzi senza specie, una relazione anche di amicizia con la popolazione locale, che era anch'essa oppressa, era stata anch'essa invasa dai tedeschi, per cui i boemi con gli italiani avevano una sorta di relazione di solidarietà, insomma gli dava da mangiare. Quindi era una forma di prigionia semiaperta, non c'erano, sì, dappertutto, potevano comunque avere contatti con la popolazione. Potevano avere contatti con la popolazione, ovviamente non potevano scappare, anche perché chi tentava di scappare, ci aveva raccontato nostro papà, era stato anche fucilato, per cui non erano rose e fiori, non era un campeggio, ma questa solidarietà incredibile tra la popolazione locale di questo paesino e gli italiani ce la siamo portate dietro anche fino adesso. Mio padre ha continuato con i suoi commilitoni ad avere questi rapporti con i boemi, i ciechi locali, e noi continuiamo ancora adesso con i figli, e spero che i nostri figli... Quindi voi avete mantenuto, diciamo, un rapporto nato negli anni tra il 43 e il 45 da un padre in prigionia. Questo è molto interessante perché poi, come da questi racconti, possano nascere storie. Io dissi nella puntata precedente che c'era pochissima storiografia ufficiale su questo periodo, me l'ha confermato la storica che stava in studio con noi, ha detto che solo recentemente se ne sta parlando, se ne sta scrivendo con motivazione, ma per una sorta di paradosso in realtà c'è una storiografia che segue un linguaggio molto moderno, molto legato alla contemporaneità, che è quello della graphic novel, e mi è stato segnalato, e oggi abbiamo appunto l'autore, che esiste una storia illustrata che proprio tratta questo periodo. Giovanni Marchese, buongiorno. Buongiorno. Allora, di cosa si tratta? Dunque, il fumetto si chiama Nessun ricordo, titolo emblematico. E il graphic novel è nato... L'editore Tunuè e il disegnatore si chiama Luca Gregorio Patanè. Ma come le è venuto in mente di fare una storia, una graphic novel, riguardo a un periodo così, così controverso, ma così poco trattato? Dunque... La base fu la suggestione che da bambino esercitavo su di me, diciamo, il racconto dei vecchietti, dei nonni nella famiglia, diciamo. Quindi aveva sentito parlare anche lei di questa avevo vicenda? Avevo sentito parlare, sì, di queste storie legate alla Seconda Guerra Mondiale, agli internati, a chi era riuscito a tornare vivo a casa. Naturalmente, passando tanti anni, io non avevo un ricordo preciso di queste storie, però mi era rimasta viva questa questione. Poi, mentre stavo raccogliendo le idee per scrivere una sceneggiatura, Mi è capitata sotto gli occhi una ricerca, un articolo di un inviato della Repubblica, Meletti, e sono venuto a conoscenza di una storia che in larga parte è sconosciuta, quella degli internati nei campi di lavoro, relativi però agli anni precedenti all'8 settembre del 43. E ho scoperto che già negli anni prima c'erano stati dei cittadini italiani, non erano né militari né militanti sindacali o politici, che erano finiti nei campi di... E a che titolo venivano presi? Cos'erano? Semplicemente dei dissidenti politici? Avevano compiuto dei reati per essere mandati? No, la cosa veramente assurda è questa. E questi cittadini italiani, ripeto, erano semplici cittadini italiani, si trovavano in Germania per lavoro ed erano arrivati lì dietro, diciamo, c'era un progetto del sindacato fascista. Quindi c'è un accordo fra dei LAS, all'interno delle esatto. Diciamo, dei componenti LAS, che alcuni lavoratori andavano a fare delle cose in Germania. Sì, ma si calcola che siano stati tra il 39 e il 42 oltre 250.000 unità che andarono a lavorare nelle industrie pesanti. Quindi lei ha individuato un settore ancora più sconosciuto in una storia che già è poco trattata. Esatto, come puoi immaginare, per chi si occupa di narrativa... Cioè gli internati prima del grande internamento dei 650.000. Esatto. E come l'ha trattata questa storia? Come l'ha trattata questa storia? Come l'ha raccontata? Ecco, ho cercato, insomma, di diffondere un po' quella suggestione di cui parlavo prima. Cioè questo racconto orale degli anziani, dei reduci, con una fonte di documenti che sono andato a ricercare, anche se effettivamente non esisteva moltissimo, perché se gli internati militari cominciano ad essere studiati adesso, figuriamoci gli internati civili del 39-42. Beh, noi lanciamo, visto che ci ha dato Giovanni Marchese, autore di questa graphic novel di Tounouet, Nessun ricordo, ci ha dato lo spunto. Non è detto che, visto che questo filone interessa al pubblico, ci piacerebbe avere qualche notizia degli internati prima del grande internamento, visto che ne ha parlato soltanto un fumetto e un articolo di Meletti su Repubblica. Se c'è qualcuno che ha notizie in casa, ci chiami, noi siamo qui per parlarne. E intanto sentiamo Giovanni. Giovanni. Sì, buongiorno, io sono Giovanni, figlio di Paolo. Mio papà era il 1922, fece la Russia. Nicolaiesca, no, la battaglia di Nicolaiesca, tornato in Italia, fu rimandato in Germania a fare l'internato, cioè fu preso in Alto Adige e spinto in Germania. In Germania, in campo di concentramento, alla mattina li facevano uscire, andavano a riparare i binari bombardati, qualcuno rimaneva anche ammazzato perché comunque era una situazione di pericolo, e ovviamente mangiare non ce n'era, per cui bisognava mangiare quello che si trovava. Un bel giorno, in questo caso di concentramento, qui è la parte dolce, diciamo, della storia, venne una signora e chiese se c'era qualcuno nel campo di concentramento in grado di fare il pane, di fare il fornaio. Mio padre, ovviamente, sentendo parlare di pane e fornaio, dice: io in Italia facevo il pane. Ma era vero, no? No, mentivo ovviamente, però per lui voleva dire la vita, voleva dire qui si mangia ancora, non si muore di fame. E si improvvisò il fornaio. Lo accompagnò nel paesino vicino, perché ovviamente anche da parte dei tedeschi i braccia non c'erano più, erano tutti in guerra, e entrò in questa casa, mio papà era terrorizzato, diceva: appena scopriranno che io non sono capace di fare il pane, mi spediranno indietro e probabilmente mi ammazzeranno, anche perché ho mentito. E invece durante la notte lo fecero alzare a mezzanotte, ovviamente prima lo avevano ripulito, lo avevano vestito tutto punto. Però ovviamente davanti a una pasta di pane da iniziare a lavorare, gli capirono subito e gli dissero: tu in Italia no, Becker, tu non sei un fornaio. E mio padre dice: sì, è solo che mi sono dimenticato, insomma, alla fine della fiera, insomma, lui si è dato da fare molto. Beh, era già fortunato, l'hanno messo davanti alla pasta già lievitata, perché se la cominciava da zero era un po' più complicato. Sì, però vedere le mani tutte piene di pasta che non si stacca più, ovviamente si rivela chiaramente subito che tu non eri... Non è che si improvvisa al fornaio, uno può per riuscire a fare qualcosa che assomiglia a un pezzo di pane se ci si mette, ma il fornaio è un mestiere complesso. Comunque lui imparò a fare il pane, rimase là qualche mese fino alla liberazione, addirittura lo pagavano, gli davano una piccola paga, e addirittura a fine della guerra lui ovviamente venne a casa, tenne i rapporti epistolari per qualche anno, e addirittura nel 1963, dunque, dopo parecchi anni, fine guerra, vennero in Italia, a casa nostra, a trovarci, e questo rapporto durò ancora qualche anno, finché poi morirono, diciamo, i personaggi dell'epoca, e così, quella storia. Ma faceva il pane anche a casa, quando voi eravate piccoli? No, il pane non l'aveva mai fatto, e non lo fece mai più il pane. Non lo fece mai più? Fare il pane. Mi parlo a parlare anche il tedesco, tutto, ma lui, ecco, voglio dire, ha avuto il lato negativo e questo lato positivo, che poteva costargli la vita, perché se avessero respinto indietro, praticamente dicendo: guarda, che tu il pane non l'hai mai fatto, probabilmente al campo concentramento. Comunque, molte volte in queste situazioni drammatiche, anche l'inventiva, anche il colpo di genio, anche l'andare contro quella che sembra la regola base di starsene al suo posto, non osare mai, ha salvato molte vite. Grazie Giovanni, diamo le informazioni adesso del traffico, poi riprendiamo. Ce ne sono tanti, non so se ce la farò a farli parlare tutti, faremo il possibile. Melog, la realtà condivisa. Non voglio rubare altro tempo, perché voglio mandare, visto che oggi abbiamo dedicato questa trasmissione alle testimonianze, più testimonianze possibili. Io sono convinto che mandandole per radio poi rimarranno nell'archivio digitale di Radio 24, la gente potrà ascoltarle, potrà confrontarle con i loro ricordi. Abbiamo dato un piccolo contributo alla storia. Carlo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io racconto la storia di mio zio, anche lui deportato dopo l'8 settembre, era a distanza a Ragusa, Dubrovnik, ed era un carabiniere, portato in vari lager dell'Austria vicino Vienna, Kaiser Steinbrück, Wegeldorf, Bergassing, eccetera, eccetera. Niente, rimase là fino al 31 marzo del 45, quando arrivarono i russi. E anche lui, durante la prigionia a Fishamend, nel settembre del 44, fu convertito IMI e fu mandato a lavorare in fabbriche, non so, dell'industria pesante, anche lì sottoposto a rischi perché c'erano i bombardamenti alleati nel frattempo, eccetera, eccetera. Sì, come ci hanno detto, venivano mandati a lavorare proprio nelle zone che venivano bombardate, così se saltavano loro poco male era, diciamo, per chi li teneva in prigionia. Ecco, mi spiega il meccanismo per cui suo zio poi vi raccontava queste cose? No, voi mio zio non ha raccontato proprio niente, ha raccontato tutto al suo fratello minore, cioè mio padre. Era andato in comune nel luogo di sua residenza e aveva deciso di scrivere delle memorie per lasciarle, poi improvvisamente, non si sa per quale motivo, decise di distruggere tutto e obbligò mio papà a bruciare tutto nel camino. Quindi non volle lasciare traccia scritta di tutto il suo ricordo? Non rimase niente, tranne un piccolo taccuino nel quale lui aveva annotato maniacalmente e con una lucidità che io non so come abbia potuto trovare in quel periodo, ore, dati, tragitti, luoghi, tutto scritto in poche righe, in poche parole, ma questo taccuino, che è stato perso per 60 passa anni, poi è stato ritrovato da una mia cugina alla morte dell'ultimo dei fratelli di mio papà. Lo avete ancora, diciamo, come bene di famiglia questo taccuino? Lo tengo ancora come una reliquia. In base a questo ho scritto un racconto. La mania della scrittura la devo un po' anche grazie a lei. Quindi lei ha lasciato... C'è un libro che parla di questa storia? Beh, dica il titolo. Un racconto. No, non è un libro. È un racconto che praticamente è servito anche per onorare, diciamo così, la memoria sua e di un altro militare di cui anche lì ho ricostruito l'esistenza, la brevissima esistenza, perché mio zio è morto a 24 anni. Ma l'ha mai pubblicato questo racconto? No. Faccio un'offerta, se vuole, non ho titolo per farlo, però penso ci sia problema, visto che questa trasmissione può andare in una pagina del sito di Radio 24, dove sarà mantenuta. Se lei ce lo manda, se non è troppo lungo, vedo se è possibile pubblicarlo. Lo pubblichiamo accanto alla trasmissione, così chi ascolterà la trasmissione nel momento in cui citerà il suo racconto potrà anche leggerlo. Sarà un piccolo file che metteremo lì. Se lei lo manda al nostro indirizzo, poi lo avremo modo. Lo troverete oggi pubblicato in rete insieme alla trasmissione. Così abbiamo dato possibilità di sopravvivere a un documento storico, perché altrimenti, le vede, da una parte c'era la volontà delle persone di non lasciare traccia e d'altra parte c'era in realtà un grande e limaccioso senso comune che di queste cose era meglio non parlarne. Ascoltiamo, abbiamo Claudio, abbiamo ancora un ascoltatore. Claudio. Sì, pronto. Claudio, la sua storia. Sì, la mia storia è veramente la storia di mio padre. E niente, lui era come truppa di occupazione. È ancora vivo suo padre? Sì. E cosa dice suo padre? Riassuma il racconto lei di suo padre. Il racconto è che appunto erano in Grecia, lui era in aeronautica, erano in Grecia come truppe di occupazione e dopo l'8 settembre li hanno fatti salire su dei carri bestiami, come proprio delle bestie, per portarli, per trasferirli in un campo, in un lager in Polonia. In Polonia, anche suo padre è andato in Polonia. Sì, in Polonia, a Katowice, vicino a Cracovia. E che lavoro l'hanno messo a fare? E l'avevano messo in una fabbrica bellica, praticamente. Lui faceva il sagomatore di ferro a freddo. È riuscito a scappare, Sì, è riuscito a scappare. È scappato dal campo di prigionia. E dove è andato dopo scappato? È tornato fino a casa? È tornato fino a casa dopo varie vicissitudini. Praticamente quando è uscito dal campo doveva scappare sia dai tedeschi che dai... Lui dalla Polonia è arrivato fino in Italia, e con quei mezzi ci è arrivato? È un po' con i treni, un po' con dei carri aiutato da gente del posto. Quanto tempo ha impiegato per questo rientro in Italia? Praticamente lui è scappato il 28 di gennaio del 45 sono arrivati i russi. Penso che sia arrivato a casa a giugno. Beh, parecchi mesi. Abbiamo concluso questa volta con una storia perlomeno finita in maniera migliore. Un detenuto, un internato che riesce a scappare, ci mette tanto ma torna in Italia. Abbiamo dato un piccolo contributo, abbiamo affidato alla storia qualche racconto e testimonianza che altrimenti sarebbe andato perduto. A domani.